termine di questi interventi, che sono stati abbastanza lunghi, insomma, interessanti, e chiunque voglia, insomma, intervenire, me lo dice, lo segno qui, diciamo interventi al massimo di 5-10 minuti. Ho già Enzo che si era prenotato del primo intervento. Modumi. E anche questa compagna qui. Enzo Modumi. Ho già due compagni segnati, sì. Quindi poi se il terzo. Puoi venire qua. Lascio. Ragazzi, quest'ultimo intervento merita una riflessione e lo collegherei al secondo intervento che c'è stato. È una questione ricchissima, annosa. Luxemburg o Lenin? Ai ai ai ai ai ai ai ai. Non vorrei scompaginare troppo, però qualcosa va detto e io la devo dire. La devo dire perché io sono un 68ino, ho fatto il 68 e scrivevamo sui muri: Bakunin e Luxemburg sono tornati in città. Come back in town. Bakunin è quello che aveva detto a Marx: guarda che se tu vai avanti con questo partito ti troverai in una situazione, e descrive 50 anni prima l'Unione Sovietica di Stalin. Ora, che cosa c'è sotto tutta questa storia? Luxemburg diceva: meglio gli errori di un movimento, lo ricordava lui prima, che le scelte giuste di un comitato centrale. È un'affermazione che va spiegata almeno un po'. Luxemburg era un cervello finissimo e aveva assorbito completamente il capitale di Marx, tutta l'opera di Marx. E in Marx c'è questa storia che io tenterò di dirvi in due parole. E cioè, nel sistema capitalistico entrano in società non gli individui, ma ciò che loro producono, le merci. Sono le merci che fanno la società e gli individui rimangono isolati. Ciò che lega questi individui isolati è il danaro, è la merce, è il mercato, cioè è qualcosa, è un nesso sociale reificato che opera nonostante gli individui, al di là degli individui, al di sopra degli individui, ne determina il destino, ma questi individui non riescono a controllarlo e rimangono isolati. Ora, fateci caso, questo nesso sociale reificato si moltiplica con lo Stato moderno, perché per gestire le merci, il mercato, è necessario il contratto e quindi è necessaria una legge che venga riconosciuta da tutti. Quindi lo Stato moderno esprime il mercato, esprime la necessità del mercato ed è un nesso sociale reificato a sua volta. Il partito politico è qualcosa del genere, cioè è un nesso sociale che non appartiene ai lavoratori, che sta fuori di loro. Certo, può avere le migliori buone intenzioni, ma è qualcosa di esterno. Ed è un nesso sociale esterno. Ma esiste un altro modo di superare l'isolamento? Cioè il partito mantiene l'isolamento pur collegando i singoli operai, i singoli lavoratori, ne mantiene l'isolamento perché gli operai non controllano direttamente il partito, o comunque quasi mai. Quindi come si fa a superare questo nesso sociale reificato e quindi l'isolamento degli individui? Ci sono state nella storia della lotta di classe dei momenti in cui questo è stato possibile. I soviet, i consigli, le autonomie, le autogestioni. E non è vero che con i media, con i social media, noi potremo superare questa situazione. Al contrario, i social media, e qui ciò che Luxemburg ci ha lasciato è così importante, perché ci serve a capire cosa sono i social media, per esempio. I social media sono un ulteriore tentativo di nesso sociale reificato che collega gli individui isolati mantenendone l'isolamento. Dunque, per vincere l'isolamento era necessario ciò che è successo con i soviet, con i comitati d'azione. Spartaco, la Comune di Parigi o i marinai di Kronstadt non hanno avuto bisogno dell'elettronica per collegarsi. Hanno avuto la capacità di collegarsi e di superare l'isolamento. Certo, è difficile. Il partito è una scorciatoia, ma mantiene l'isolamento. Basta, io mi sono vendicato. Volevo solo ricordare che è importantissimo della Luxemburg ciò che la Luxemburg ha scritto già nel 98 e poi ancora nel 15, nel 16, contro ciò che Lord Keynes avrebbe chiamato keynesismo militare. Cioè la Luxemburg disse: guardate che la produzione di armi è lo splendido, la splendida soluzione delle economie. L'economia in crisi si possono superare con la produzione di armi, perché lo Stato si indebita con i privati e poi recupera quando il ciclo ritorna su. E questa è una previsione della Luxemburg che si è verificata e vale ancora oggi. Che altro sono le guerre americane se non keynesismo militare? Grazie. No, prima la compagna. Però microfono, se no diventa complicato per tutti. Purtroppo è una spada di Damocle. È un momento, un filtro necessario. Aspetti un attimo. Rosa Luxemburg, così come gli altri rivoluzionari più o meno noti rimasti uccisi durante la repressione borghese dell'insurrezione, comunemente conosciuta come spartachista, ma in realtà diretta per modo di dire dei socialisti indipendenti in cui si fecero trascinare gli spartachisti, e i tentativi rivoluzionari successivi durante l'ondata rivoluzionaria mondiale tra il 1917 e il 1923, era lontana dall'avere un feticcio per la democrazia intesa in termini generici, che non può essere intesa, che non può essere che borghese. Eppure la sua storia di militante rivoluzionaria è stata sottoposta spesso a strumentalizzazioni vergognose da parte dell'ala sinistra della borghesia, che l'ha trasformata o in una controrivoluzionaria o in un'innocua pacifista e femminista. Non si potrebbe trattare di nulla di più falso in entrambi i casi. A causa delle differenze tra il capitalismo russo e quello tedesco e dei rapporti di forza tra il proletariato e la borghesia, gli spartachisti avevano maturato una teoria e una prassi delle relazioni tra il proletariato e l'avanguardia politica non uguale a quella dei bolscevichi, ma la Luxemburg aveva sempre lottato per l'indipendenza politica del proletariato attraverso un partito e aveva rifiutato nettamente concezioni anarchiche o sindacaliste della lotta di classe della rivoluzione per il loro apoliticismo. In particolare il feticismo dell'organizzazione che la socialdemocrazia, la cui natura di classe sostanzialmente controrivoluzionaria, all'eccezione della minoranza di sinistra, non si era ancora pienamente rivelata, aveva sviluppato, che la socialdemocrazia aveva sviluppato in un contesto di capitalismo altamente sviluppato, in un paese in cui erano presenti la maggior parte delle libertà democratico-borghesi, aveva fatto sì che la Luxemburg assumesse accenti che sono stati dipinti, o volutamente fraintesi da interpreti interessati in cattiva fede, come democraticisti. La militanza della Luxemburg nelle file della socialdemocrazia prima e della più numerosa avanguardia comunista sorta in Germania durante la prima guerra mondiale risulterebbe inspiegabile a voler credere agli stalinisti che caratterizzano la Luxemburg in questi termini. La Luxemburg non aveva mai teorizzato il rifiuto dell'autorità in sé, né aveva separato la lotta rivendicativa dalla lotta politica, o meglio annullato, non aveva mai annullato la seconda nella prima, affermando che la rivoluzione sarebbe stata la conseguenza della dura lotta rivendicativa e dell'organizzazione sindacalista rivoluzionaria. Il rifiuto del feticismo dell'organizzazione, quale che fosse, ovvero organizzazione a prescindere dalla sua natura di classe come partito, non si traduceva nella Luxemburg in una condanna dell'organizzazione come strumento del proletariato per paura del sostituzionismo, come dimostra il suo ruolo nella fondazione del Partito Comunista, sia pure molto in ritardo, e la contrarietà all'improvvisata e prematura insurrezione spartachista. E proprio dalla sua collocazione su un terreno di classe saldamente rivoluzionario veniva la sua ostilità nei confronti del femminismo. Il movimento interclassista aveva l'inserimento delle donne borghesi e piccolo borghesi nella società borghese e nello Stato borghese a pari condizioni con gli uomini, in quanto una mobilitazione delle donne proletarie sotto le file delle femministe avrebbe compromesso l'indipendenza politica delle donne proletarie e del proletariato nel suo insieme. La Luxemburg si opponeva al femminismo come avversava qualsiasi forma di segregazione politica del proletariato lungo linee interclassiste che non gli erano proprie come classe rivoluzionaria, tra cui il collaborazionismo di classe con la borghesia sotto la bandiera dichiarata dell'interesse nazionale. Ovvero la battaglia della Luxemburg contro il revisionismo e la battaglia della Luxemburg contro il revisionismo erano due facce della stessa medaglia. La realtà dell'oppressione femminile, e in particolare delle donne proletarie e contadine, per una militante rivoluzionaria come la Luxemburg, non giustificava l'adesione a campagne motivate esclusivamente dall'emancipazione legale di un numero di donne appartenenti alla borghesia e alla piccola borghesia. Così come il dominio di classe della borghesia sul proletariato non significava che si dovesse collaborare con la propria borghesia in cambio di misure riformistiche per di più dipendenti dallo stato di sviluppo e salute del capitale tedesco. Ovvero la Luxemburg, come ha detto il compagno Bobbo, come la Luxemburg rifiutava l'idea che si dovesse entrare nell'esecutivo comitato d'affari della borghesia per alleviare le condizioni degli operai, migliorarne le condizioni, così rifiutava che si dovesse collaborare con degli esponenti della borghesia, le femministe, per migliorare la condizione delle donne. In entrambi i casi, in perfetto stile riformistico, sacrificava la lotta di classe e la rivoluzione al culto di presunte realizzazioni concrete. Per una militante rivoluzionaria come la Luxemburg, la lotta per porre fine all'oppressione era parte della lotta per l'emancipazione del proletariato e quindi dell'umanità. La Luxemburg, così come gli altri esponenti dell'ala rivoluzionaria dell'SPD, era a favore del pieno godimento da parte delle donne di tutti i diritti civili e politici borghesi, al contrario delle stesse suffragette, le quali nella maggior parte dei casi si accontentavano della concessione del suffragio alle sue donne borghesi in pieno accordo con la sensibilità progressista del tempo che tenevano il voto alle donne proletarie e contadine perché troppo religiose. Ora, le femministe si sono fatte molto più sofisticate sul piano teorico con i loro programmi di considerare tutti i tipi di oppressione, allo stesso modo, come se il capitalismo e quindi lo sfruttamento del proletariato non fosse la causa in ultima istanza delle altre forme di oppressione. In questo modo, pure il femminismo più radicale, attento alla lotta di classe almeno a parole, prosegue di fatto l'opera controrivoluzionaria del femminismo tradizionale nel sabotare l'organizzazione politica indipendente del proletariato. Massimo. cerchiamo sempre di rispettare i 5 minuti. Sì, sì, no, sì, certo, esatto. Fortissimo. No, io voglio essere polemico, decisamente polemico. Anche questa presa di posizione contro il femminismo della compagna nell'ultimo intervento, forse non tiene conto, diciamo, della realtà attuale, cioè del fatto che, cioè, secondo me c'è un vizio all'origine di questa, di come è andata avanti la cosa. C'è un discorso storico che è fondamentale, no? Che è stato fatto su quello che è stato, anche il compagno poi, allora, gli errori, perché di errori si parla, no? E molto gravi, perché hanno portato alla morte di centinaia di compagni e alla sconfitta di una insurrezione. Chiamarla rivoluzione è un po' troppo, un'insurrezione. Allora, il problema è questo. Benissimo, figuriamoci, è tutto esatto, no? La ricostruzione è precisa, sono state fatte delle forzature, Liebknecht ha fatto quello che ha fatto, eccetera. D'altra parte Rosa, che è sulla quale noi stiamo discutendo, che è il nostro punto di riferimento, su questo è stata molto chiara, cioè non ha preso una posizione, voglio dire, non poteva sconfessare, perché appunto non a caso la sua coerenza di rivoluzionaria l'ha portata a condividere il destino dei compagni che sapeva votati alla sconfitta. Questo è importante, questo è molto importante, perché significa giocare la propria vita in difesa degli ideali in cui si crede. Chiaramente questo ci è costato la perdita di una compagna assolutamente straordinaria, però è un esempio anche fondamentale. Allora io dico, la ricostruzione storica, benissimo, ma se la ricostruzione storica in qualche modo tendenzialmente vuole, diciamo, sottolineare il fatto che la sconfitta era in qualche modo inevitabile, perché guarda caso, Lenin che ha fatto? Lenin ha costituito insieme agli altri compagni, Trotsky e quei grandi rivoluzionari della direzione del partito bolscevico, un partito che è stato lo strumento che ha permesso la conquista del potere. Però noi sappiamo adesso, sono passati 100 anni, quel partito aveva vinto, che cosa è successo dopo? Cioè il partito che era stato lo strumento per realizzare la rivoluzione, quindi è stato uno strumento fondamentale per la conquista del potere, si è poi trasformato, e lo stalinismo questo poi sostanzialmente è, no, nel fine, cioè da mezzo a fine, cioè nel senso che ha riassunto in sé tutto quello che è lo Stato in prima persona, e quindi chiaramente questo ha portato al fatto che i Soviet, che sono stati richiamati da Enzo Modugno con molto precisamente, i Soviet sono stati messi da parte. Cioè uno Stato che si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e sovietiche dove sta? I Soviet che cos'erano? Pura forma, un nome diventato, non la sostanza che doveva essere che cosa, perché su questo noi dobbiamo essere chiari. Quando si dice, io sono veramente stufo, perché poi voglio dire, come vecchio compagno ho attraversato parecchie esperienze, no? Quindi c'è il discorso, la vecchia cosa appunto che anche Enzo diceva, Lenin o Lenin o Rosa Luxemburg. Questa cosa non sta in questi termini qui, non ci aiuta oggi, assolutamente. Quello che dobbiamo capire è che oggi è impensabile che qualcuno possa costruire un partito che si dice comunista, perché poi noi abbiamo questa cosa drammatica, che in questo paese che vive una situazione estremamente difficile, arretrata, eccetera, eccetera, ci sono 4 sedicenti partiti comunisti, no? Che si dicono di sé, di chiamarsi comunisti, con forse in tutto quanto 1.000, 2.000, 3.000 militanti, a essere larghissimi, e che non hanno... Quale tipo di rapporto hanno con la classe o comunque con il proletariato, perché a questo punto non è più solo la classe operaia, è il proletariato diffuso, quindi praticamente dentro ci stanno tutti quelli che sono costretti a vivere, diciamo così, in qualche modo al servizio del capitale, in qualunque forma e sotto qualunque aspetto, no? Si presenti la cosa. Allora, questa cosa che significa? Significa che noi dobbiamo rilanciare tutte le esperienze e credere sostanzialmente nel fatto che gli organismi di base, che si organizzano in tutti i posti, nell'università, qua, all'università, fuori, nei teatri, nelle, no, l'esperienza che c'è stata del Teatro Valle, che poi è andata a finire malissimo, no? Era un tentativo di dire: ma si può pensare di fare qualche cosa di diverso rispetto alla mercificazione dell'arte, del teatro, cioè, così come tante altre, in tutti i punti, in tutte le parti possibili. Però questo con un controllo democratico continuo, perché è la democrazia diretta, cioè qui nessuno può delegare nessuno oggi. Io rifiuto la delega, non posso dare la delega a nessuno. Io devo essere presente nel posto dove voglio lottare e devo avere il controllo sempre insieme a tutti gli altri che sono con me per decidere insieme in che direzione si va. Cioè l'auto-organizzazione è fondamentale. Noi dobbiamo credere oggi, ma figuriamoci, abbiamo tutti gli strumenti e tutta l'intelligenza per poterlo fare. Perché non lo facciamo? Cioè è l'unica possibilità. Assemblea, l'assemblea proprio, ecco questa è l'assemblea, è una cosa viva che si può trasformare da una situazione nella quale stiamo discutendo, ognuno dice la sua più o meno in maniera cosa, cioè in un'altra cosa, si può trasformare in un'altra cosa, cioè diventa un momento in cui si dice benissimo, allora noi che siamo qui e stiamo parlando della Luxemburg, che cosa potremmo fare in concreto come iniziativa politica, no? Per incidere sulla realtà schifosa che ci circonda e che ci fa schifo, appunto, essendo schifosa, e vorremmo rovesciarla. E che dobbiamo fare? Lo sappiamo, se ci mettiamo insieme possiamo anche fare come piccolo gruppo, questo gruppo, che è un gruppo poi improvvisato. Certo è un gruppo selezionato, perché chi è venuto qui è un compagno comunque, no? Cioè non viene uno che non è un compagno in una situazione di questo genere. Anche con provenienze diverse, con storie diversissime. Però questa è la cosa fondamentale. L'unica possibilità, basta, non voglio più sentire lo spontaneismo, ma che significa? Ma che vuol dire? Cioè l'unica possibilità è l'organizzazione dal basso. Organizzazione dal basso, che era esattamente quello che diceva Rosa. E nello stesso tempo è evidente che questo non significa che un partito che però sia controllato strettamente dalle organizzazioni di base non possa esistere, sicuramente, ma devi avere la possibilità comunque di controllarlo veramente. Quindi è la democrazia diretta. Cioè non è che tu, siccome sei il segretario del partito, decidi che parti e fai le cose. Ma dove? Ma quando? Cioè deve essere esattamente rovesciata questa cosa. Grazie. Allora, intanto grazie per l'assemblea, perché è importante che qualcuno torni a parlare di Rosa Luxemburg in quanto rivoluzionaria, perché c'è stata una grande operazione che viene da decenni, è lontana e vecchia di parecchio tempo, di collocare Rosa Luxemburg in un altro ambito. Come è andata avanti questa operazione? Prima Giorgio diceva una cosa fondamentale, quando praticamente sottolineava che la dicotomia tra Rosa Luxemburg e Lenin non deve essere estremizzata. Perché questo? Non perché le differenze non fossero grosse, ma perché erano differenze nel campo rivoluzionario, cioè differenze all'interno dello stesso campo. Mentre in Italia c'è stata un'operazione di vecchia data, che addirittura risale non ai cialtroni di oggi, ma anche a personalità di un certo livello come Lelio Basso, che effettivamente ha giocato su questa contrapposizione per poi, diciamo, trasformare il discorso di Rosa Luxemburg in un elemento che andava ad integrare una visione comunque interna alla democrazia borghese, perché Lelio Basso è stato uno di quelli che hanno teorizzato la carta del 48 non come manco come un passaggio tattico del momento, ma come un punto di riferimento stabile del movimento operaio. Quindi questo che voleva dire? Che la Luxemburg separata da Lenin e teorica della democrazia diretta diventava la teorica di un elemento che andava un po' a integrare la democrazia borghese. Questa è stata l'operazione. In questo solco di basso si sono collocati poi quelli di Rifondazione, che appunto i cialtroni di cui dicevo prima, perché almeno Basso una levatura teorica ce l'aveva, anche se l'operazione è discutibile. Altro aspetto, che è fondamentale e si collega a questo, ed è il nesso tra organizzazione e masse, tra avanguardia e masse, il discorso dello spontaneismo. Anche qui sono d'accordo sempre con Giorgio, non è un'etichetta spontaneista applicabile a Rosa Luxemburg. C'è un problema che è la contrapposizione tra lei e non tanto Lenin, come si dice in molte ricostruzioni, ma tra lei e Kautsky, perché il grande teorico della coscienza che viene portata agli operai dal di fuori della classe, dal di fuori delle lotte della classe, è proprio Kautsky, che ha quest'idea del partito che profonde la sua scienza su queste masse di proletari ignoranti che, diciamo così, debbono essere guidati passo dopo passo in qualsiasi cosa che fanno e non nemmeno hanno seri momenti di crescita nella lotta. Invece Rosa Luxemburg si contrappone a questo e dice che nei momenti di lotta esce fuori anche una creatività operaia, una creatività proletaria, esce fuori una ricchezza e esce fuori anche la possibilità di leggere quelli che sono i momenti drammatici della lotta. Cioè, quando Rosa Luxemburg rivendica il diritto a sbagliare della classe operaia, non è che è un discorso alla Bertinotti che faceva qualche anno fa, vabbè, la prossima volta andrà meglio, ma intanto ci abbiamo provato e siamo stati bene insieme. Non era esattamente questo, è un altro discorso, è che riflettendo su questi sbagli è possibile, diciamo, superarli in un secondo momento, ma un passaggio fondamentale di questa riflessione è che la riflessione è collettiva ed ha dei momenti centralizzati, cioè è una riflessione di cui prende atto l'organizzazione, ma che l'organizzazione in qualche modo sollecita, stimola, quindi c'è un rapporto dialettico e una compenetrazione stretta tra questa organizzazione a cui lei non ha mai rinunciato teoricamente e la spinta creativa e autoriflessiva delle masse. Nella perdita di uno dei due elementi c'è una deviazione o nell'organizzativismo oppure in un discorso, diciamo, appunto quello veramente banalmente spontaneista che non porta a molto. Io direi che nei primi anni del Novecento Rosa Luxemburg è la figura che su questo tema ha dato il contributo più grosso, talmente grosso che ripensandolo e rileggendolo risulta attuale ancora adesso che siamo nel 2019. Scusate se mi impossesso del microfono, ma tra un pochino devo andare via, cioè lo sono nella scaletta, non è stato un colpo di stato, ma comunque sia, insomma, magari ho un attimo sostituito magari ancora interventi del pubblico. Volevo dare soltanto altri due o tre elementi di contributo dal punto di vista storico e uno finale magari appunto nella proiezione, perché in realtà sono sentito cose belle, anche folgoranti, anche se non del tutto magari necessariamente condivisibili, ma l'intervento di Enzo Mourinho è stato folgorante nella capacità di spiegare dei passaggi dei nessi teorici del marxismo e anche di suggerire delle visioni. Allo stesso tempo, sempre sul paragone Lenin, ritorno quindi sul paragone Lenin, cioè sul confronto Lenin-Luxemburg, il contesto tedesco e il contesto russo, a cui tra l'altro dovremmo aggiungere pure i contesti francesi, italiani, britannici, perché se la rivoluzione deve essere mondiale non è che esistessero soltanto Germania e così. In parte, la cosa che dirò spiega anche perché in Francia e in Gran Bretagna non ci fu nulla di ciò che è successo in Germania o in Russia o in Ungheria o persino in Italia. E la questione primaria è quella lì, i consigli su cui faceva inizialmente leva lo spartachismo per contendere il potere del partito maggioritario dell'SPD e anche in parte degli indipendenti, tra il 18 e il 19 votarono a favore dei socialdemocratici. Questo è un dato di fatto oggettivo, quindi le strutture dell'auto-organizzazione operaia furono permeabili in quel momento alla seduzione del potere repubblicano. Questo non vuol dire che non erano una risorsa, una possibilità rivoluzionaria, ma vuol dire che qualcosa andò in cortocircuito. Cosa andò al cortocircuito? Che potere che i socialdemocratici tedeschi misero in piedi in quei mesi, un potere di estrema raffinatezza. Non fu soltanto la brutalità del martirio e dell'uccisione, ma fu un lavoro di convincimento, deviazione costante e continuo di parte dei rappresentanti anche esterni al sindacato della classe operaria. E non a caso la dimensione prettamente anche delle masse, quindi non solo operaia nel senso industriale del termine, che si vedevano nei consigli dispersi a livello territoriale, era, come dire, permeabile a discorsi del potere. Quindi non è che di per sé l'organizzazione delle masse tedesche dava potere, diciamo, forza alla rivoluzione. Allo stesso tempo però non è che Lenin si inventò niente. Lenin ebbe anche una fortuna nella sua genialità, ovvero un colpo di stato reazionario che avvenne a metà del 1917, e furono i bolscevichi in quell'occasione a salvare la rivoluzione e a legittimare l'ulteriore step rivoluzionario. La raffinatezza del potere tedesco fu tale che almeno fino al 1933, e non fu certo una controrivoluzione quella di Hitler, ma fu una vera e proprio step e passaggio in termini, diciamo così, storici rivoluzionari, ovviamente non in termini di classe, l'esercito tedesco lasciò le chiavi in mano ai socialdemocratici e si fece i cazzi propri. Non intervenne mai per buttare giù la Repubblica e non fornì mai pretesto alle forze della rivoluzione spartachista per poter difendere una rivoluzione che aveva anche dei tratti borghesi pronti per poterli superare. Ed è un passaggio non banale, perché il potere zarista era un potere rosso, il potere tedesco era un potere raffinato, moderno, imperialista a tutto tondo, capace di intervenire, comprendere e capire la società. Noi non dobbiamo banalizzare a volte quello che la controparte è, pensando che siano soltanto errori soggettivi a determinare sconfitte o vittorie, oppure errori, oppure capacità. Ma esiste una controparte, esistono delle controparti. In Gran Bretagna e Francia erano talmente raffinate che sul nascere spensero qualunque tentativo, pensiero, immagine, possibilità rivoluzionaria. Esistevano gli operai, esistevano le forze più o meno dell'organizzazione, esistevano componenti sindacali, esistevano componenti rivoluzionarie. Ora, quindi, oggi, quando andiamo a vedere questo ne porto oggi, passando per il secondo dopoguerra italiano, passando per il ruolo del PC, di cui non parlerò perché altrimenti si apre, che era un potere raffinato, che aveva una logica raffinata di repressione, stemperamento e annullamento e distruzione, non era un potere banale, non era semplicemente la quinta colonna. La riflessione che i compagni tedeschi articolarono negli anni 70 sul potere della socialdemocrazia faceva perno su questa raffinatezza del potere socialdemocratico, quindi fu un'elaborazione che nel movimento rivoluzionario continuò. Oggi la socialdemocrazia è morta, oggi la socialdemocrazia non esiste nemmeno nelle forme che diceva Elisabetta, perché PD è altra cosa rispetto a quella socialdemocrazia del Novecento. Ha una forma, come dire, capace ancora di, usando un termine un po' poco sentito, perculare parte del movimento democratico, delle compagne, ma molto molto residuale nella sua dimensione, diciamo, di illusione e disillusione, ma è un partito liberista a tutto tondo, un potere che disarticola lo Stato, che liberalizza, che privatizza, non è un potere che costruisce la raffinatezza dello Stato centrale. Quindi oggi purtroppo andare a ricostruire quella storia e attualizzarla, siccome dal mio punto di vista anche il mio lavoro da storico mi porta a fare questo, studiare la controparte. Non sono appassionato di studiare movimenti, contromovimenti, perché lo fanno altri compagni, altre compagne, ma è anche migliore. Mi piace studiare la controparte. Oggi è difficile trovare un vero nesso, se non in quelle suggestioni dette da Giorgio prima rispetto alla determinazione, rispetto a alcune cose, e su quello non sempre si è necessariamente d'accordo. Il potere europeo oggi è qualcosa di inaudito rispetto al Novecento, ma qualcosa ancora di non conosciuto, ancora di non noto, ancora di non così tanto compreso da noi, e quindi siamo impotenti di fronte a questo potere europeo, di fronte al potere dell'internazionalizzazione del capitalismo. Quindi l'esperienza di Rosa Luxemburg cosa mi insegna? Mi insegna che la controparte esiste, si muove, è capace, è spietata, è feroce, lo è anche nelle sue forme repubblicane, progressiste, soprattutto in quelle forme, perché è più capace di deviare le coscienze e di annullare il processo di auto-organizzazione, cosa che i fascismi e i liberismi non fanno e non riescono a fare, ma anzi chiarificano. Basta. Ciao a tutti, sono Iago, un compagno, di battaglia comunista. E, innanzitutto vorrei giusto dire due parole su perché abbiamo organizzato questo incontro. Innanzitutto mi trovo molto d'accordo sulle parole di Giorgio riguardo al fatto di stare molto attenti a mettere in antitesi la figura della Luxemburg con la figura di Lenin, perché entrambi, a parte aver militato insieme ai primi del Novecento verso Oriente, si trovano all'interno appunto di un contesto storico determinato che è infiammato sia dai postumi della Prima Guerra Mondiale sia dalla Rivoluzione d'Ottobre, e quindi tutte le loro, diciamo, polemiche o scontri rientrano comunque all'interno, come dicevano anche altri compagni, del campo rivoluzionario. E questo secondo me è un elemento centrale. Lo stesso Giorgio in radio l'altro giorno diceva: all'epoca c'era la capacità di portare avanti una polemica aspra ma sincera tra i rivoluzionari. Ed è un po' questo lo spirito dell'assemblea di oggi: tornare a parlarsi francamente tra compagni che vengono da esperienze diverse, che non negano le loro tradizioni, ma che hanno la capacità di porsi in discussione all'interno di un processo che noi reputiamo oggi o domani, non si sa quando, inevitabile, che è la ripresa della lotta di classe e la possibilità di un'alternativa sociale, economica e politica. Detto questo, vorrei dire due parole sulla Luxemburg. Dire che la Luxemburg fosse contraria o avversasse l'idea dell'organizzazione, che all'epoca era chiamata partito, però se purtroppo c'è questa paura della definizione partito, anche se in realtà partito lo dice la parola stessa, parte di un qualcosa. Lei ha combattuto una vita per il Partito Rivoluzionario, è morta perché non ha capito che la socialdemocrazia non era l'ala destra del movimento proletario, ma bensì l'ala sinistra del movimento borghese, e purtroppo, non capendolo, è stata assassinata. Su questa cosa, secondo me, c'è da fare un chiarimento, perché spesso si cita la teoria kautskiana del partito di intellettuali che Lenin riprende nel Che fare, ma come giustamente ci ha fatto capire Bobbo, noi dobbiamo contestualizzare quegli eventi. Il Che fare viene scritto nel 1902 in aperta polemica contro l'economicismo, che era una tendenza che prendeva piede nel Partito Socialdemocratico Russo, che diceva, un po' prendendo spunto da Bernstein, il movimento è tutto, il fine è nulla, dava molta più importanza al movimento della classe a prescindere di dove questo movimento la portasse. E allora a quel punto Lenin dice: compagni, qua il problema del movimento operaio socialdemocratico russo è il problema della dirigenza e quindi di guidare il movimento. Noi dobbiamo stimolare la spontaneità delle masse, ma da marxisti non possiamo pensare che la massa, il proletariato, la classe sviluppi l'autocoscienza nel suo processo, altrimenti è la Luxemburg, Marx, Lenin, Engels e tutti i grandi rivoluzionari che ci stavano a fare. Se l'autocoscienza è immanente nella classe, non serve organizzarsi, non serve studiare, non serve apprendere alla battaglia del passato, perché c'è l'autocoscienza. E su questa cosa, secondo me, quei passaggi del Che fare sono molto chiarificatori. Cioè, la classe da sola può sviluppare una lotta che però è limitata alla sua condizione immediata, quindi a una lotta economica. E questa lotta economica porta posizioni economiciste, quindi sindacaliste. Quindi il massimo di espressione politica che autonomamente la classe può mettere in campo è di tipo sindacale, ma è allo stesso tempo di tipo borghese, perché si tratta di cercare di porre un rapporto tra interessi inconciliabili che possono trovare una risoluzione solo con un momento di rottura. Momento di rottura che può avvenire in determinati momenti storici, è avvenuto nel 1905, come ricordava il compagno, che però era diretto dall'ala menscevica e dei socialisti rivoluzionari, è avvenuto nel 17, prima a febbraio come rivoluzione borghese, poi come rivoluzione proletaria, e purtroppo non è avvenuto nel 19. Perché? Perché secondo me il perché è l'aspetto più diciamo interessante. Secondo me la dicotomia Soviet o consigli dei lavoratori e partito è una dicotomia completamente errata da rivoluzionari. Cioè il partito o l'avanguardia della classe e il resto della classe sono due elementi che devono stare in rapporto dialettico. La classe è l'elemento storicamente eversivo di contraddizione e di rottura, ma ha bisogno comunque di una guida politica. Che poi siano i proletari e le proletarie a metterla in piedi è la nostra speranza, la nostra diciamo così ambizione. Purtroppo nel 18 in Germania nascono i consigli che però hanno caratteristiche molto diverse dai soviet, perché comunque c'è una grossa componente e compagine borghese, gli ufficiali militari e elementi politici non solo della socialdemocrazia ma anche di partiti conservatori. E nel 18 sono gli stessi diciamo consigli a decidere di lasciare il potere al governo socialdemocratico di Ebert, come ci ha ricordato lo stesso compagno Bobbo. Per cui diciamo, anche riallacciandoci alla Luxemburg, il discorso che faceva Luxemburg di dare più importanza al movimento era in grande parte, più che una critica ai bolscevichi, una critica al proprio partito, che era, soffriva di burocratismo, soffriva di legalismo, soffriva di riformismo. E quindi quando lei parla di dare più spazio alle masse, alla loro lotta, lei in un certo senso tende anche a idealizzare un po' la classe, ovvero lei dice la socialdemocrazia non è la parte della classe, ma è la classe. È per questo che lei non seppe mai rompere sostanzialmente con la socialdemocrazia, perché riteneva che fosse un elemento di classe, quando in realtà tramava contro la rivoluzione. E detto poi questo, giusto una breve annotazione, cioè compagni, bisogna anche essere un po' pratici, no? Fossimo stati noi ai tempi di Lenin, c'era l'autocrazia russa, non c'era libertà di stampa, c'era la repressione per ogni evento politico, ogni sciopero. Quindi cioè, bisogna anche capire certe concezioni che sono storicamente determinate e limitate appunto a quelle condizioni socio-economiche. L'unica soluzione e possibilità di portare avanti una propaganda rivoluzionaria per i bolscevichi era quello di costruire un forte partito centralizzato di rivoluzione delle professioni illegale. Diversamente in Germania c'erano condizioni sociali e economiche totalmente diverse che potevano permettere una militanza all'interno di un partito di massa come era quello socialdemocratico. Questi sono tutti elementi che bisogna tenere conto. Bisogna stare molto attenti a quello che ci raccontano i nemici, ovvero che la Luxemburg era una grande democratica e Lenin era un pessimo dittatore, perché comunque entrambi condividevano delle aspirazioni. La stessa Luxemburg dentro il testo La rivoluzione russa dice se c'è stato un partito che ha avuto una capacità di leggere gli eventi, adesso vado un po' a braccio perché la citazione non me la ricordo, mi perdonerete, che ha avuto la capacità di leggere gli eventi e di piegarli alle necessità della rivoluzione, quel partito è quello di Lenin, di Trotsky e di tutti i compagni. Quindi la Luxemburg aveva un'ammirazione incredibile per i compagni russi e come i compagni russi l'avevano per lei, all'interno di una dialettica tra i rivoluzionari che noi vorremmo riprendere, e non è a caso che questa assemblea vorrebbe essere il primo di un momento di confronto tra compagni e compagne, per cercare di partire magari da elementi e esperienze storiche per tornare a parlare dei problemi che la lotta di classe pone sul tappeto. Secondo noi uno dei problemi è senz'altro la questione dell'organizzazione, ma ci sono anche quelli che sollevava il compagno Giorgio, cioè la composizione di classe oggi, negli anni 20 del XXI secolo, sarebbe molto interessante fare uno studio trasversale alle organizzazioni. Che cos'è il proletariato oggi? Come si caratterizza? Com'è composto? Com'è frammentato sul territorio? La metropoli capitalista piuttosto della periferia capitalista, che in un certo senso oggi si configura come quella che una volta era la, il centro capitalista, no? Abbiamo concentrazioni industriali di operai in Sud America, nel sud-est asiatico, spaventose, che in confronto la manchesterizzazione è una bazzecola. Quindi secondo me noi dobbiamo tornare a parlarci, a confrontarci e avere la capacità umile di metterci in discussione, perché se siamo arrivati a un punto così basso del movimento rivoluzionario internazionale è perché abbiamo sbagliato un po' tutti, nessuno c'ha la verità in tasca, e quindi secondo me oggi non solo per una classe frammentata, spaurita e disorientata può essere una, un'occasione di crescita, ma anche per i compagni e le compagne che si considerano comunque portatori di un'alternativa a questa società. Grazie. Giorgio, posso farti una domanda prima che intervieni? Allora, è una cosa che mi ero segnato, scusami, mi ero dimenticato, volevo fare proprio questa domanda. Siccome è un passaggio che io reputo molto interessante da Luxemburg, è quello contro, diciamo, il nazionalismo, ma più precisamente sulle lotte di liberazione nazionale. Lei diceva che le lotte di liberazione nazionale, visto lo sviluppo imperialistico, erano ormai non più di carattere progressivo, ovvero un aspetto di crescita in direzione della rivoluzione proletaria. Io mi trovo molto d'accordo con lei, anche se allora, essendoci sacche di feudalesimo, credo che avessero ancora un senso, però come tutta la sinistra comunista dell'epoca, già dagli anni 20 in poi, riteniamo che le lotte di liberazione nazionale non abbiano più nessuna funzione progressiva, a maggior ragione oggi nell'imperialismo ultramaturo, dove ogni lotta nazionale finisce sotto il cappello dell'imperialismo di turno. Come fanno a convivere quelle posizioni internazionaliste di rigetto, diciamo, delle lotte popolari con il sostegno alle lotte palestinesi oppure del popolo curdo, o nel peggior caso dell'appoggio ai sedicenti socialismi del Sud America? Grazie. Ovviamente oggi. Posso fare una domanda? Sì, sì, parlo dell'oggi. Prima che mi dimentico. Cioè, mi dia il microfono. Scusi, non avevo capito. Allora, io vorrei sapere da voi perché Trotsky non è annoverato, a differenza di Stalin, nel comitato rivoluzionario. Cioè Trotsky non sapeva nemmeno l'ora, e il giorno di quando scoppiava la rivoluzione d'ottobre, la data della rivoluzione. Ecco, semplicemente questo volevo sapere. E perché Trotsky fece il passaggio da menscevico a diventare bolscevico nella fase in pieno sviluppo di rivoluzione, della rivoluzione? Io non ti so rispondere, non sai rispondere? No, non ho gli elementi puntuali per risponderti, perché dovresti chiedere a Trotsky, ma è un po' difficile. Cioè, perché lui è da menscevico è diventato bolscevico, penso un processo di maturazione politica. Non so quali altri elementi, cioè una domanda troppo secca, non mi sento proprio in grado di darti una risposta, non lo so. Perché uno cambia opinione? Perché pensa di aver sbagliato? Perché non sapeva nemmeno la data e l'ora. Ma questo poi proprio non era nel comitato rivoluzionario, differenza. Ma questo proprio non lo so, la data e l'ora non so neanche che vuol dire. Proprio. No, è importante. Non lo so, non ti so rispondere, magari se poi c'è qualcuno che ti può rispondere, volentieri. No. Sì, allora, per quanto riguarda viceversa l'oggi, brevissimamente, è giusto l'appunto che fai, come si conciliano le due cose. Io credo che il punto, e di nuovo sta in Rosa Luxemburg, dove le due cose si conciliano è se sia chiaro il ruolo delle borghesie nazionali. Queste lotte che oggi tu hai citato, dai palestinesi ad altri eccetera eccetera, devono sempre fare i conti con le borghesie nazionali. C'è stato un periodo negli anni 70 in cui con i palestinesi, la parte del fronte popolare con cui c'erano rapporti più continui, più fecondi, più dialettici, il problema delle borghesie nazionali era molto presente, loro ce l'avevano molto presente, in particolare le borghesie nazionali arabe nel loro complesso, che vedevano la causa palestinese in modo assolutamente strumentale, e quindi diversi ruoli dell'Egitto, di quello, di quell'altro, come ti pare, che al limite davano sostegno di carattere economico, di armi, di quello che ti pare, ma che guardavano sempre con certo timore un eventuale sviluppo in senso rivoluzionario e proletario, quindi di classe, del movimento palestinese. Oggi non è più così, anche nell'area dei palestinesi, senza individuare le diverse frazioni, questo discorso delle borghesie nazionali si è perso, ma questo si è perso dappertutto. Potresti farlo non solo per i palestinesi, puoi farlo per la Siria, il ruolo della borghesia siriana, Assad compreso. E poi qui si innesta tutto, diciamo, l'intreccio, il meccanismo quasi automatico: sei contro l'imperialismo, quindi sei con Assad. C'è uno schematismo che ragiona così, no? Non sto dicendo che è il mio punto di vista, sto dicendo che si è molto perso questo tipo di ragionare, che è classista, cioè che rimanda sempre a una società divisa in classi, per cui Assad non può, rappresenta il popolo, ma il popolo non rappresenta gli interessi di classe. Quindi è sempre un ragionamento sull'interclassismo, insomma. Qui stanno insieme nella misura in cui, cosa che dicevi tu, sia chiaro il ruolo delle borghesie nazionali in ogni paese e a livello internazionale, perché poi si sostengono uno con l'altro. Cioè, se devo vedere oggi come immagine proiettata per quanto riguarda il Venezuela, vedo Erdogan che va in Venezuela, è ricevuto con tutti gli onori, e che Maduro gli dà la spada del Bolivar. Se mi fermo a questo, dico, vabbè, è macello, insomma, no, è chiuso. Dove stanno gli interessi di classe in questo? Chi li rappresenta? Certamente non sono rappresentati da queste cose. E poi qui scattano tutte le considerazioni. La tattica, che diventa tatticismo poi, no? E quando è portata all'infinito è la fine. Quindi, insomma, tanto per così, un abbozzo. Non so se è una risposta esauriente, però, insomma, per dirti... per me stanno in piedi solo a queste condizioni, che se sia chiaro il ruolo delle borghesie nazionali, per cui puoi anche fare una lotta di liberazione, non altrimenti definita, liberazione da cosa? Che poi ci liberiamo da... certo, però intesa come lotte di liberazione nazionali, ce ne sono state anche qui negli anni 70, Mozambico, Angola, eccetera, eccetera, avevano delle impronte socialiste, poi mano a mano questo si è perso nella misura in cui proprio le borghesie nazionali dei singoli paesi hanno fatto agio sugli interessi di classe delle masse proprietarie di quei paesi, oltre le influenze, le ingerenze degli stati esteri, Cina piuttosto che Unione Sovietica, quando non addirittura erano un contrasto come nel caso dell'Angola, eccetera eccetera. Cioè è in questo marasma che si sono persi gli interessi di classe, è in questo marasma, e qui rispondevo a te proprio sull'invito che tu fai alla polemica anche dialettica, si perdono gli interessi di classe, perché potresti dire tu, secondo quello che dicevi prima, la classe in sé non riesce a farsi una coscienza dei propri interessi, delle proprie condizioni e quindi dei propri interessi. Io dico attenzione, qui entro in polemica, fino a un certo punto. Fino a un certo punto è accettabile questo discorso, perché altrimenti ricadiamo, nonostante l'invocazione alla dialettica tra avanguardia e massa, ricadiamo necessariamente in uno schematismo storico che vede o i Soviet o il partito, o Lenin o i Soviet. E qui allora ti dico, sei sicuro che l'esperienza del 1905 non abbia influenzato la situazione non solo russa ma di carattere internazionale, per cui ha scompaginato completamente quella che era la visione consolidata del partito? Questo è successo, ma è successo in virtù di cosa? Solo di una diciamo affermazione di forza da parte delle masse russe che hanno costituito i Soviet, o perché il Soviet di per sé rappresentava già l'embrione dello Stato proletario? Qui si è stato il dibattito su cui all'inizio del 1905 il 90%, o comunque lascia stare il numero sbagliato, la gran parte dei bolscevichi davano addosso ai soviet e dicevano no, non sia mai che questi si presentano così e pretendono non solo di dirigere la lotta ma di rappresentare gli organismi futuri dello Stato proletario. Non sia mai. Questi devono essere, chi chiedeva addirittura di farli fuori, chi diceva dei ricondizionali, eccetera, eccetera. È solo perché, insomma, Lenin era un po' diverso, anche c'aveva qualcosa in più evidentemente, che ha posto riparo a questo, se no veramente avresti trovato la dicotomia partito contro soviet, ma non perché i soviet erano contro il partito, non ce l'avevano proprio in testa, era il partito che si poneva in antagonismo ai soviet. È così, ma storicamente è così, insomma, è da approfondire, ma io ho gli elementi concreti per dirti questo, insomma, no? Perché ci ho studiato anch'io, pur non essendo un ricercatore di professione. E quindi ti dico con pronunciamenti, con prese di posizione del Comitato Centrale, che è così, per cui tu vedi questa bestia strana e allora che non sai come prenderla e non capisci che è stata la tua di mancanza, no? Lenin lo capisce, recupera, però recupera fino a un certo punto, perché poi quando lui delinea il partito bolscevico, quello che poi nel 17 avrà ragione, e lo delinea come assolutamente impenetrabile da tutti i punti di vista. Qui tu invochi la necessità storica. E chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Col senno di poi? Noi siamo comunque col senno di poi. Noi siamo comunque col senno di poi. Quindi, se voglio immedesimarmi, tu hai detto, dice, se noi fossimo stati al posto di, io sti ragionamenti ho difficoltà a farli, perché come quando la controparte mi dice si metta al posto mio, no, io so, tu stai al posto tuo, io sto al posto mio, tu sei la mia controparte, ma queste cose non le faccio mai, ovviamente Lenin non è una mia controparte, ci mancherebbe, ma è talmente difficile immedesimarsi in quella situazione che io non posso pensare ad altro che ha un retaggio ancora possente dentro il partito bolscevico di quello che era la seconda internazionale, proprio il concetto stesso della seconda internazionale, per cui per quanto il 1905 avesse detto si può fare direttamente la rivoluzione proletaria senza passare per la rivoluzione borghese, questo significava da parte dei rivoluzionari bolscevichi comunque una messa in discussione della loro funzione o perlomeno del loro ruolo. Io lo metto in conto questo, non posso semplicemente immaginare che i soviet non possono produrre da soli risultati migliori di quelli che hanno ottenuto, e ti invito a riflettere sui decreti che avevano fatto nel 1905 a Pietroburgo e in altre città sulla libertà di stampa, sulle 8 ore, che erano decreti attuativi di che cosa? Di uno Stato, di un organismo che funzionava già come Stato proletario. È questo rifiuto da parte del partito che fa riflettere, è questo atteggiamento ostativo da parte del partito, nonostante il recupero di Lenin, che fa riflettere. E ancora nel 17 questa cosa si ripropone, ovviamente con l'esperienza del 1905 in maniera diversa, ma il risultato finale al giudizio della storia, e qui per forza il segno di voi, perché la storia viene dopo, è che la rivoluzione ha vinto, hanno avuto ragione i bolscevichi, ma il comunismo ha perso, la società comunista non ce l'hai avuta, questo pure. Sì, ha perso perché l'idea del partito era malata o ha perso perché la rivoluzione è rimasta isolata? Io dico che questo è un argomento, no, la rivoluzione è stata isolata. Non è stata isolata. Ma sì che è stata isolata, però insomma isolata. Mi sembra troppo facile. Mi sembra, è un argomento, però io ci metterei anche proprio il ruolo. Si poteva costruire il socialismo in un solo paese? Da una parte mi dici ti devi mettere nel contesto dell'epoca e io ti dico ho difficoltà a mettermi nel contesto dell'epoca, poi mi dici, cioè dando per scontato che è così, che nel contesto dell'epoca, quindi tu ci stai in quel contesto, io ti dico non ci sto, e il socialismo in un solo paese non si poteva fare, come fai a dire? Il socialismo non si può fare in un solo paese. questo è Marx. Sì. Cioè, o è Marx o prendiamo Marx come bussola oppure no. Vabbè, allora se perché dobbiamo. Se no passiamo dalla critica a Lenin all'appoggio a Stalin. E la cosa diventa un po'. Vabbè, ma questo è un giochino che insomma, a me non lo faccio, non mi piace. Io esprimo delle perplessità, no? Invito a riflettere su quello che tu stesso hai sollecitato, cioè una dialettica. La dialettica si è interrotta tra Soviet e partito. Oh, allora chi l'ha interrotta sta dialettica? Almeno questo ce lo dobbiamo chiedere, no? Come interrogativo. Se non lascia stare, non me vale personalizzare, non è Lenin, non è Bugari, non è chi te pare, non è manco Stalin. È il partito, quella concezione che dice: allora questo è vietato, questo si può fare così, questo non si fa così. È ammesso quello che decido io, ho semplificato, non è così, ma se non neghiamo pure che c'è stata una forma di socialismo reale, così viene definita, in 70 anni d'Unione Sovietica. Dice, ma quello no, poi prendiamo tutte le distanze, però i fatti storici sono fatti storici. Allora, che tipo di regime era quello? Capitalismo di Stato. Capitalismo di Stato, eppure qui ci semplifichiamo la vita, perché sai... pure quello del cinese oggi è capitalismo di Stato, però qualche differenza c'è tra la Cina di oggi e l'Unione Sovietica degli anni 20, 30, 50 eccetera, no? C'è una discontinuità tra i primi anni della rivoluzione. No, voglio dire, se no appiattiamo tutto sul ragionamento, però è estremamente ideologico, capisci quello che voglio dire? Senza che faccia diventare dibattito. Sì. Assolutamente, però se no sembra che ci sia una continuità tra la rivoluzione del 17, insomma, e poi in definitiva io quello che mi interessava dire era, di fronte alla tua affermazione che non può darsi un processo di tu l'hai chiamato di autocoscienza, comunque di formazione della coscienza in sé da parte della classe, e qui neghiamo pure Marx perché coscienza lui dice, in sé, coscienza per sé, appunto, no? Tutti e due gli aspetti, quindi anche la coscienza per sé, non solo la coscienza in sé, ma la coscienza per sé. Io dico, lo lascio aperto, dico perché negarlo? Che elementi abbiamo per negarlo? E di dire solo il partito te la può dare? C'è un esempio storico? Ma no, perché ti ho detto, questo esempio storico è macchiato dalle argomentazioni che ti ho dato prima, secondo me. Questa c'è è... un esempio storico di una rivoluzione fatta dalla classe senza una guida politica? Ma il fatto che non esiste non è che non si possa verificare, è il fatto che non esiste, se no non capisco, il fatto che non sia ancora avvenuto non è detto che non si possa verificare, insomma no... Io lo lascio aperto, quantomeno rimando alla dialettica da queste due cose, in cui dico chi l'ha detto che la classe in sé, e quindi in personificando perfettamente l'assunto marziano, non possa darsi questo. Poi anch'io sono per la dialettica, ci mancherebbe altro, però si tratta di capire se il partito è un fine o è uno strumento. Quello che si è avverato storicamente è stato un fine, non uno strumento. E allora, di nuovo, come si corregge il partito fine o strumento? Come si realizza? E quali elementi possono essere l'antidoto perché il partito non si trasformi in un fine? L'organizzazione di massa, non chiamiamola Soviet, chiamiamola organizzazione di massa del proletariato. L'incubo degli anni, dalla terza internazionale in poi, fino a oggi, ancora oggi, è questo. Perché tutti hanno giocato che l'organizzazione di massa del proletariato c'era e non c'era, e nessuno si preoccupava di farla veramente. Al massimo nella terza internazionale che hanno fatto? C'era il comodo dei sindacati, l'hanno assegnato questo ruolo al sindacato. Questo è diventato, ma resta il problema, è inevaso dal movimento comunista internazionale. L'organizzazione di massa del proletariato qual è? Non c'è stata, c'è stata per rari momenti nella storia, ma non c'è, eppure serve. Ce lo dobbiamo chiedere, se no fa tutto il partito. Potrebbe essere il prossimo argomento di dibattito. Guarda, io sono prego. In parte d'accordo. Sì. Sono in parte d'accordo che la classe operaia possa raggiungere una forma parziale di coscienza per sé, ma è come è successo storicamente nel caso di tutte le esperienze soviet o della Comune di Parigi, in cui non c'è stata l'influenza di un partito rivoluzionario, bisogna mettere che in quei casi la classe non era completamente preparata. Sì, la classe lavoratrice organizzata nei soviet aveva emesso questi decreti, ma per molti aspetti seguiva ancora partiti riformisti. Ad esempio, perché i bolscevichi si opponevano inizialmente ai soviet nel 1905? Perché i bolscevichi stavano anche cercando di utilizzare, strumentalizzare i soviet a favore del loro progetto, appunto, di una rivoluzione borghese, e utilizzavano anche i soviet in senso economicistico, per loro i soviet erano organismi di lotta economicistici che dovevano realizzare per la borghesia una rivoluzione borghese e poi cedere il potere. Era da qui che veniva la contrarietà dei bolscevichi, perché non che invece al contrario i menscevichi non fossero infettati da queste concezioni socialdemocratiche, anzi erano infettati molto di più. Infatti i bolscevichi erano sì un partito illegale centralizzato, ma non erano un partito gerarchico, era un partito che aveva una democrazia interna e che appunto metteva appunto delle posizioni politiche. Per quale motivo la classe lavoratrice non è mai riuscita a realizzare un tentativo rivoluzionario, a mettere a compimento un tentativo rivoluzionario senza la confluenza tra la classe, tra i soviet e il partito? Questo è perché la classe è inesperta e ci passano diversi anni tra fiammate e l'altro. Il partito in qualche modo, il partito rivoluzionario, conserva i ricordi delle esperienze passate della classe lavoratrice, che invece in alcuni periodi, come in questo ultimo periodo, perde addirittura l'identità di classe, non può avere perfettamente. Quindi ci vuole la dialettica tra il partito e i soviet, ma mi sembra, questo hai ragione, sono d'accordo con te, ma mi sembra che quando tu hai parlato di dialettica tra soviet e partito, hai insinuato che sia il partito ad avere come tendenza insita in sé per sé quella di sopprimere i soviet, quando non è così. Bisogna vedere il tipo di partito, il tipo di storia. L'errore dei bolscevichi, anche a causa dell'influenza della socialdemocrazia, è stata quella di identificarsi un po' con una forma di Stato che aveva introdotto degli elementi fin da poco l'ottobre non del tutto in linea con uno Stato proletario, come ad esempio il Sovnarkom, che sotto l'influenza della guerra aveva portato a una burocratizzazione, un processo degenerativo anche dello stesso partito bolscevico, perché il partito bolscevico degli anni 20 non era sicuramente il partito bolscevico degli anni 10, che aveva una democrazia interna in cui le linee passavano dal basso verso l'alto e non viceversa. Perché la classe ha bisogno di un partito? Perché la classe ha bisogno di esprimere una linea politica. Senza l'organizzazione che possa esprimere una linea politica, come si può solo pensare di fare una rivoluzione? Questa è una mia riflessione, poi sei libero di pensare diversamente. Diciamo che i tempi si sono allungati un pochino e potremmo comunque cercare di fare una nuova iniziativa rispetto a questo quesito, e comunque arrivando magari già preparati rispetto a questa profonda discussione che c'è stata e che sarà riportata sul sito della radio, perché abbiamo registrato gli interventi e quindi cerchiamo insomma di costruire nuovi momenti di dibattito come questi, che sono comunque fondamentali, certo cercando anche però di provare un gancio col presente, perché sennò si rischia di rimanere un po' annacquati rispetto al che fare oggi, perché è importante studiare il passato. Io primis lo faccio come studente di storia, ma è soprattutto utile ai fini del presente per rivoluzionare lo stato di cose presente. Bene, quindi ringraziamo tutti e tutte e ci vediamo prossimamente o qui o chissà dove. Internazionalismo! Rivoluzione!